La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indignità morale indicati dalla legge. Con l'articolo 48 entriamo nell'ultimo titolo della parte prima della Costituzione, quella dedicata ai rapporti politici. E il primo articolo riguarda il voto. Innanzitutto pone il principio di universalità del voto. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. È un principio che oggi ci può sembrare quasi ovvio e scontato, e invece è un'affermazione storica importantissima, perché va ricordato che in Italia il suffragio universale maschile è solo del 1913 e precedentemente votavano pochissime persone. È un dato molto significativo ricordare che alle prime elezioni italiane del 1861 gli abitanti erano 22 milioni. Di quei 22 milioni avevano diritto al voto solamente 500.000 persone e di queste ne votò la metà. Quindi nel 1861 in Italia votava l'1% della popolazione. Oggi invece su 60 milioni di abitanti votano 46 milioni di cittadini, per cui il diritto di voto è universale. È molto interessante sottolineare come la Costituzione riconosca esplicitamente il diritto di voto anche alle donne, perché per tradizione le donne in Italia non hanno mai votato fino al 1946. Tutti salutano il 2 giugno 1946 come primo voto delle donne, anche se in verità nel 1945 in alcune elezioni amministrative locali le donne avevano già votato. Ed era un'innovazione grandissima e molto importante, perché invece per tradizione si riteneva che le donne non fossero capaci, non fossero abili a votare. Chi è interessato può andarsi a rileggere i discorsi addirittura di Cavour della metà del 1800 contro il voto alle donne. Il secondo comma garantisce le modalità di voto. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Per cui bisogna votare in condizioni di piena garanzia di riservatezza e piena parità. Non possono più esistere, come invece nella storia sono esistiti, i voti plurimi. Tutti i cittadini sono uguali e tutti quindi contano allo stesso modo nel voto. L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 48 riconosce che il voto è un dovere e in particolare un dovere civico. Questa particolare frase è frutto di un compromesso in Assemblea Costituente, perché i partiti laici e cattolici avrebbero preferito un voto obbligatorio, invece le sinistre puntavano ad un obbligo morale di votare. Si è raggiunta questa formula che ci indica che non è una libera scelta votare, ma andare a votare è un dovere connesso alla piena partecipazione alle forme di rappresentanza politica. Aver previsto che il voto è un dovere comporta ovviamente delle sanzioni. Queste sanzioni sono state applicate soltanto nei primissimi anni di vita repubblicana e sono state applicate dalla legge in maniera molto lieve. Oggi vanno ricordate esclusivamente per curiosità, perché fino agli anni 60 era previsto che i comuni predisponessero degli elenchi dei non votanti e potessero esporli negli albi pretori delle città. Ormai questa forma di sanzione del non voto non è più prevista. Ovviamente la garanzia costituzionale del dovere civico copre anche l'astensione, perché l'astensione esplicitata come voto nullo o voto bianco è comunque una modalità di esercizio legittima del diritto di voto. La seconda parte dell'articolo 48 riguarda invece il voto degli italiani all'estero. Il voto degli italiani all'estero è un'aggiunta recente al testo costituzionale, in quanto sono modifiche dell'anno 2001 e sono modifiche che hanno portato alla creazione della circoscrizione estero in maniera da portare direttamente in Parlamento rappresentanti delle comunità italiane residenti all'estero, anche perché, come ben sappiamo, la comunità degli italiani all'estero è composta da milioni di cittadini i quali esercitano il voto non in presenza ma per corrispondenza, in maniera da poter eleggere rappresentanti delle comunità locali.